Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Palla verso Dybala, poi il piazzato per l'1-0. Eccolo il vantaggio Juve con Piazza. Trova l'acuto, trova il tocco vincente, regala il sorriso a Nedved e a Bonucci. Asensio col mancino morbido. 100 volte Cristiano, doppietta nella notte di Monaco, 2-1, un gol da opportunista, un gol da fenomeno che si ritrova nel momento più difficile e cambia la storia. In mezzo, arriva anche Dybala, prova a girare subito, rete, un altro gioiello, un altro capolavoro incredibile, Dybala. Marcelo penetra, deve dribblare anche l'arbitro, tutto solo Marcelo, l'appoggio ancora, Ronaldo rete, rete, Ronaldo rete, la tripletta, 100 in Champions, 100 in Champions per lui, 3-2 Real Madrid. Lucas Vázquez in mezzo a Casemiro, Lucas va sul fondo, Casemiro lascia, Ronaldo tutto solo, rete, rete, altra tripletta incredibile, altra tripletta per Ronaldo, contropiede micidiale, un 3-0 che sa di finale. Bonucci anche va dentro, parte cross e Subasic, attenzione Dani Alves al volo, prova la botta, rete, rete, che gol, in stato di grazia, Dani Alves, 2-0. Tutti convocati, Road to Cardiff. Beh ragazzi miei, questo è il cammino che abbiamo ripercorso di Juventus a Real Madrid. A questo punto non ci resta che aspettare e io vi chiamo di nuovo all'appello, non solo io ma anche Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Siamo qui anche nel giorno del D di festa, non so cosa state facendo voi, vi starete preparando se vi interessa la partita o starete grigliando delle bistecche. Però ieri mi sono molto divertito nell'ascoltare i vostri racconti di viaggio e quindi magari siete in viaggio verso Cardiff. Mi interesserebbe ancora molto capire quale sarà, qual è il vostro tipo di pellegrinaggio verso quell'angolo di mondo piuttosto lontano. 800 24 00 24 è il numero verde. Mi interessa anche sapere, perché sono curiosissimo. Ah, a proposito, prima che me ne scordi, potete anche vederci, vedermi quantomeno, non sarà un grande spettacolo, ma tra poco mi tolgo la maglietta, quindi vi esibisco un fisico scultoreo, potete vederci, ride la Lezzari, attraverso Facebook e attraverso la pagina internet di Radio 24, mi farebbe molto piacere. Allora, cosa stavo dicendo? Mi interesserebbe, sono curioso, quindi mi interessa sapere anche da voi, dalla vostra voce, più che dai messaggi 349-238-6666 che comunque valgono sempre. Come vi state preparando a viverla in poltrona questa finalona finalissima di Cardiff di domani sera? E vorrei saperlo non solo dai tifosi della Juventus, che sono in fondo la minoranza, diciamoci la verità, ma anche dai gufetti, gufoni o gufacci, perché tra i quali credo i primi siano, ma così a sensazione, siano gli interisti, perché se la Juventus fa il triplete salta anche la frase finale che tagliava la testa al toro in ogni discussione calcistica, no? Però il triplete ce l'abbiamo noi. Ciao a tutti, vado da un'altra parte. Allora, parleremo anche di calcio e di tecnica naturalmente, e poi dopo le 15 non si vive di solo pallone, anche se in questi giorni sembra di sì, però domenica c'è il Mugello, c'è Valentino Rossi che correrà sebbene acciaccato, c'è un appuntamento da rispettare a cui tengo molto, e quindi dopo le 15 Roberto Ungaro sul versante due ruote, Leo Turrini sul versante quattro ruote, poi momenti particolarmente caldi di una stagione in cui la Ferrari è tornata a correre, Valentino può essere di nuovo competitivo, guest star Giacomo Agostini oggi, dopo le 15 Racing Team. Dunque, ma parlavamo di viaggi verso Cardiff. Il nostro Dario Ricci, che sta andando a Cardiff, così come Giovanni Capuano, che però tornerà in tempo per la puntata di domenica 17-19 e vi aspettiamo, sarò ovviamente anch'io. Il nostro Dario Ricci in viaggio verso Cardiff ha pescato un viaggiatore che arriva da ben più lontano. Vi faccio sentire questa divertente intervista. Aeroporto di Malpensa di Milano, tutto pronto per la partenza per Cardiff, sarà un volo di poco più di due ore, niente di disagevole, soprattutto se confrontato col volo che ha fatto il nostro ospite di oggi, perché pensate, questo tifoso juventino è spinto dalla passione per i colori bianconeri addirittura ad attraversare gli oceani, perché arriva direttamente dal Brasile. Come ti chiami? Ciao, sono Francisco Guerrera. Francisco, raccontaci esattamente il tuo viaggio, perché brasiliano arrivi adesso e stai qui in Italia e stai per partire verso Cardiff, è incredibile. Da dove sei partito? Allora, è stata davvero un'avventura per vedere la Juve. Io abito in Brasile in una città che si chiama Joinville. Ho preso la macchina ed ho guidato per due ore da Joinville a Florianópolis, sono città nel sud Brasile. Poi ho preso l'aereo da Florianópolis a San Paolo e poi un altro aereo da San Paolo verso Miami. Poi sono arrivato a Miami, ho preso un altro volo da Miami a Londra e da Londra un altro aereo per Milano. Ho sceso a Milano, sono atterrato a Milano e sono andato a Torino per conoscere lo Juventus Stadium. Poi sono tornato a Milano e adesso sono qua a Malpensa per prendere l'aereo per andare a Cardiff. Quindi, e sicuramente vinceremo. Di fatto sei arrivato a Londra, tu potevi andare direttamente a Cardiff, invece no, sei sceso giù per vedere proprio lo Juventus Allianz Stadium, proprio ecco, notizia recente. Ecco, per vedere lo stadio della Juve e davvero sentire l'atmosfera della Juve. Sicuramente ne vale la pena fare questo sacrificio per la Juve. Senti, hai fatto un conto totale dei chilometri che stai facendo? Ti sei fatto un'idea quante migliaia sono? Ma non ho idea, non ho davvero idea, ma ci sono stati almeno tre giorni di viaggi, troppo lontano, ma tutto per la Juve si può fare e sicuramente Gigi ci porterà questa coppa. Senti, ti posso chiedere quanto ti è costato tutto sto viaggione? Più o meno il viaggio con il ticket, più o meno 15.000 reais, diviso 3, almeno 4.000 euro. Vabbè, pensavo pure peggio. Senti, direi che si va a Cardiff soprattutto te con la voglia proprio di metterci le mani su questa coppa. Sarà un'esperienza meravigliosa. Sono sicuro che abbiamo finalmente una squadra forte abbastanza perché Gigi ci possa portare questa coppa, ma soprattutto abbiamo i nostri brasiliani che sicuramente sono fortissimi e aiuteranno tutta la squadra ad uscire vincente da questa partita. Dani Alves è sicuro nel suo miglior livello, anche Alexandro. Quindi abbiamo i più bravi terzini al mondo e sono la Juve e questo è meraviglioso. Allora, buon viaggio verso Cardiff, ormai sei quasi arrivato, Francisco, dai. Ci manca poco, grazie amici, forza Juve! Più che un viaggio, questa è una storia d'amore. Vi abbiamo raccontato una storia di amore vero, poi pensavo peggio, 4.000 euro per partire da posto sperduto del Brasile fino a Florianópolis e poi tutto sto viaggione, biglietto incluso, chissà dove dormirà il nostro amico brasiliano. Ma più che un viaggio, questo è il riassunto di una storia d'amore. 800 24 00 24, e io vado a sfrucugliare subito gli ascoltatori con Cristian e Alberto. Buongiorno Cristian. Buongiorno a voi, buongiorno. Che sta facendo di bello? In questo momento sto vivendo l'attesa, sì, di partire domani da Verona con l'aereo per raggiungere Cardiff. Sì, quindi si fa a Milano, cioè, mi scusi, Verona, Londra, giusto? No, no, è diretto su Cardiff. Ah, diretto su Cardiff, attenzione. E poi fuori dall'aeroporto ci sarà un pullman che porta al vecchio stadio. E lì inizia la zona pedonale che porta allo stadio della finale. Sono 2 chilometri a piedi da fare. Beh, saranno 2 chilometri meravigliosi, io credo. Con le, sì, farfalle nello stomaco, ma soprattutto quelli del, ma sa, ritorno. Qualcosa lo vede l'andata, perché al ritorno sarà talmente assorbito dalle sorti della partita, sì, che penserà soltanto a quello. Quindi il cammino di ritorno. Ma poi dove dorme? Non si dorme. Ah, non si dorme, perché? No, il volo di rientro è previsto per le 3.45 della domenica mattina. Eccellente, quindi... mi sembra un'eccellente soluzione, che le è costata, sì, La bazzecola di 1230 euro. Prego? 1230 euro. 1230, biglietto incluso. Tutto incluso, sì. Buono, mica male, dai ragazzi, mica, sì, male, mica male. Poi comunque il biglietto è di un settore dello stadio dove si vede abbastanza bene. Sì. Si vede, sì, perché lo spicchio dove praticamente fra ha studiato lo stadio, ha studiato lo stadio. Studiato, ma tra l'altro, sì, mi raccontava il mio amico Giacomo Bagnasco prima che in quello stadio, per ragioni rugbistiche naturalmente, sia stato tantissime volte, che è uno stadio meraviglioso, ma ci sono dei punti in cui si vede così così. Sì, per esempio, dicono che dalla tribuna stampa non si veda poi così bene, perché è molto in basso. Questo non lo so, intanto avverto di questo dettaglio il mio amico Maurizio Crosetti di Repubblica. Bene. Buona sapersi, viva. Mi porterò il binocolo. Il binocolo, no, io sto raccogliendo storie di viaggio. O forse il cannocchiale. Dico, forse un caleidoscopio, non lo so cosa servirà per vedere meglio questa partita. Non so, megafono. Senti come arriva a Cardiff Alberto da Parma, perché ogni racconto è diversissimo. Abbiamo sentito prima un tifoso che arrivava da una zona sperduta del Brasile, pensa, per arrivare a Cardiff. C'è chi parte da zone un po' più vicine come Alberto. Buongiorno, sì, ci racconti come va a Cardiff? Allora, anch'io prendo l'aereo da Verona e vado diretto su Cardiff, però cioè, non lo so, ma praticamente mi è venuto un l'assento, Alberto, che dispiacere, non l'assento, però aereo da Verona su Cardiff, beh, questa mi sembra una buona soluzione, come ci ha raccontato l'ascoltatore prima. Verona, Cardiff diretto e poi volo nella notte, 1230 euro tutto compreso, si poteva fare il classico pacchettone. Maurizio... Se lo sapevo ci andavo anch'io, e mi sono fatto Torino, Francoforte, Bristol, Bristol, Cardiff, dove mi aspetta una mongolfiera, quindi facevo prima fare un bel charter. vabbè, dai. Raccontami Cardiff, tu che sei una delle penne più... Ma Cardiff ha una scontrosa illuminate. Grazia, come direbbe Umberto Saba, Cardiff ha una scontrosa grazia, se piace, sì, eccetera. No, è una città in cui per adesso, sinceramente... non ho visto né militarizzazioni né orde in arrivo, solo nuvole bianche e nere che rendono però il cielo molto juventino, sì, a righe, anche piovuto un po' stamattina, e per adesso è tutto abbastanza tranquillo, speriamo, così spero anche di lei, speriamo che lo resti, sì, tranquillo, perché è la Coppa, è la finale nella città più piccola della storia della Coppa dei Campioni, della Champions League, fu già Coppa dei Campioni. Quindi, sì, indubbiamente, certo, è uno scenario diverso. No, è ma una, sai, poi normalmente in grandi metropoli, in grandi città, anche interessanti, sai, ti organizzi pure la gita, ma a Cardiff, a parte i lupi solitari come me, non è che ti viene voglia normalmente di andarci, eh? No, anche se poi tutto sommato questi luoghi hanno un fascino diverso che non è certo quello della mucchiata turistica e offrono paesaggi, offrono visioni visuali secondo me di grande suggestione, no, ecco, infatti... forse non proprio, non proprio Cardiff forse, però insomma nei dintorni perché no, c'è un bel castello, ci sono delle belle, sì, belle sì, campagne, angoli, spigoli da vedere, insomma, sarà che a me piace, al Regno Unito piace. No, ma pure a me, infatti io sono un pensavo tipo un po' piovoso, sai. Ma allora... no, ma io molto più di te, io sono proprio un lupo solitario, non sono per la barba che porto, e quindi ti chiederò con calma domani, no, dopodomani, di prenotarmi degli alberghi, perché vado a Cardiff, mica a vedere la finale, ci vado in estate in moto a Cardiff da solo. Maurizio Crosetti, dimmi, vuoi venire anche tu? Io credo che farai di gran bene, come si dice. Vuoi venire anche tu? Prendiamo un sidecar, in modo con sidecar, se sì, vuoi sì, venire. Perfetto, vengo, dai, vengo. Dai, vengo. Organizza, già che sei lì, organizza. Aspetta. Road to Cardiff, ragazzi. 800-24-0024, subito dopo il traffico. Ma stai lì ancora un attimo, arriva anche Pardo e vi aspetto. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Maurizio Crosetti, hai finito di raccontare le storie delle finali passate con oggi con Padoin su Repubblica, ma tu c'eri a Roma nel 96? Io ci sono da Bruxelles, anche se pare brutto dire che ho cominciato così la mia avventura nelle finali, però mi è toccato, ero molto giovane e ovviamente molto spaventato, sì, molto scosso, sì. L'Eisel non è uscito da nessuno di noi, no, da nessuno di quelli che c'erano e chi dice che contrariamente. Anche ieri parlando con Paolo Rossi si è parlato della finale di Atene, quella di Amburgo, che anche lui stesso diceva quella non la conto proprio, non esiste nella mia anima quella Coppa dei Campioni alzata. Sì, non esiste il risultato sportivo, no, esiste non esiste resto, qualcosa chiaro, che non esiste più, fu una tragedia di storia che la storia racconta. Anche se poi devo dire che facendo questo viaggio nei gregari della Juve, Massimo Briaschi a proposito dell'85 mi ha detto anche, secondo me con un comprensibile fastidio, che sì, tutte le speculazioni fatte sul giro di campo eccetera non tenevano conto che per esempio il presidente della Federcalcio Sordillo aveva chiesto alla Juventus di fare un giro di campo e di farlo durare il più lungo possibile perché potessero uscire dallo stadio gli inglesi e potessero rimanere lì gli italiani, cioè sembrano dettagli. Si è poi però... molto polemizzato sull'esultanza di Platini dopo il rigore, bene, si è polemizzato certo, su mille cose, cose buone. Non siamo qui a difendere. Però per ci sono cose che la gente non sa e non sa che se non si giocava davvero avremmo sì, contato certo, molti più morti. Ma certamente questo, questo pure va detto, ma questo invece lo sanno tutti. Pierluigi Pardo? Eccolo. Ti do una notizia in esclusiva che potrai raccontare ai tuoi ascoltatori nella prepartita di domani sera, giusto? Sì. Allora, la prossima estate, cioè quest'estate, io e Maurizio Crosetti andiamo con il sidecar in Galles a visitare quella regione. Adesso Maurizio organizza e partiamo, io e lui, quindi mi sembra una notizione. Tradizione, ma ne è escluso e questo un po' mi dispiace, però vabbè. Mi si escludeva come cantava. Vuoi venire anche tu in gara? Ma no, ma tu sei più da mare, da posti VIP. No, no, no. Sei più... È bello, eh? Eh? È bello il Galles. Ho detto ieri, sono proprio smonfi. Cardi, non è male. Vabbè, cioè, ragazzi, tutta campagna, ma noi va bene, noi siamo dei solitari, portiamo anche le canne da pesca, Maurizio, andiamo a prendere le trote. Assolutamente. Peschiamo con la mosca. Senti, peschiamo con la mosca, ma intanto Allegri ha pescato, parliamo un po' di pallone prima di andare da Alberto da pescare, credo sia pure in viaggio verso Cardiff, tra poco ce lo racconta. Con la mosca Allegri ha pescato Dani Alves esterno alto e Barzaglione in campo, dunque Cuadrado in panchina, la scelta è questa, era anche la più prevista e prevedibile, Piero. Sì, è abbastanza singolare e significativo, che era sicuramente la scelta più prevista e prevedibile dopo essere stata una subordinata per buona parte della stagione. Esattamente un mese fa a Monte Carlo questa diventava la scelta, la sorpresa dell'ultima ora, sì, di Allegri, e un mese dopo è il sistema che si propone per la finale. Per me ci sta, insomma, io in vari momenti della stagione pensavo che Dani Alves poteva avere anche quell'utilità. Sì. È un giocatore comunque in una grande condizione fisica, devastante dal punto di vista offensivo, che ha sempre avuto una grande spiccata propensione offensiva e che in un 4-2-3-1 ti viene la tentazione di provare qualche metro più avanti, soprattutto perché non è più esattamente un ragazzino, anche se sta benissimo, e quindi togliergli qualche compito di copertura lo aiuta. In più il difensore che gioca è un difensore che dà ampie garanzie in termini di esperienza e di tenuta della posizione. No, in più, ultimo elemento, il sacrificato è un ottimo giocatore, ma ha vissuto un ultimo mese un pochino al di sotto. Certo, il suo standard, e poi può essere anche importante avere comunque a partita in corso l'uomo che ti spezza il ritmo, cioè la carta tattica da giocare. Quadrado può giocare questo ruolo nel basket si direbbe sesto uomo, da non trascurare il fatto che di tutti quelli che saranno in campo domani sera all'inizio, Dani Alves è quello che ha giocato più finali, 30, sì, ne ha vinte 25, Maurizio. È il giocatore più titolato al mondo, non è un caso, ed è arrivato in una forma strepitosa, come diceva Pierre, nel momento giusto per presidiare, per offendere in quella zona di campo, per far difendere in quella zona di campo Barzagli, il territorio dove è molto probabile che si decida la finale, o comunque potrebbe decidersi, sì, proprio lì la finale. Certo, è una delle mille zone del campo in cui potrebbe decidersi. Tu l'hai visto molte volte con altre maglie in questa condizione. Io sinceramente da forse 4 anni non lo vedevo più. Non è la presenza o meno in campo di Dani Alves che era scontata. Il punto è ovviamente la posizione in campo. Beh, è chiaro, questo è chiaro. Questo tipo di scelta chiama anche per un atteggiamento un po' più difensivo, non tanto per quello che succederà alle spalle della punta centrale, perché Dani Alves in condizione spinge almeno quanto Quadrado, ma perché chiaramente avere Barzagli in questo tipo di posizione ti dà delle garanzie difensive superiori. Questo è chiaro. Stavi dicendo, Maurizio, invece? No, stavo dicendo che Dani Alves ha un'effervescenza atletica e anche psicologica, psichica, che lui ha anche raccontato prima di affrontare il Barcellona, che è l'effervescenza di chi si era di fatto sentito messo alla porta da una grande squadra che ha fatto la storia del calcio degli ultimi 20 anni, appunto il Barcellona, ma lui sapeva di non essere arrivato alla frutta. Sì. E quindi c'è di tutto, c'è la sua allegria di gioco, c'è la sua grandezza assoluta, la classe, l'esperienza, ma c'è anche questa voglia di esserci sempre, di esserci ancora, che poi è quella che animerà molti degli juventini all'ultima occasione o all'occasione più grande. È un contenuto psicologico da non sottovalutare, che io credo la Juve userà forse persino più del Real. Mi diceva un collega, un caro esperto collega come Diego Torres del País, lui è argentino, lavora in Spagna, vede il Real tutti i giorni. L'altro giorno mi diceva: il Real ha più bisogno di questa, la Juve ha più bisogno di questa Coppa Real. Per bisogno si intende, sì, la fame, la voglia, ragazzi, l'essere al giorno che non, dove non si torna, dal quale non si può tornare senza. Questo mi sembra abbastanza scontato, perché da una parte poi è un'ossessione. Ronaldo fa 3 gol. No, ma questo è evidente, ma da una parte è un'ossessione, dall'altra parte è una semplicemente, non dico semplicemente un numero, è un altro importante trofeo. Sì, però siamo lì, qualcosa di il Real Madrid può entrare nella storia, perché potrebbe essere la prima squadra dell'era della Champions League a vincere per 2 anni. Certamente, però vuoi mettere la fame di più a Torino, non c'è, cioè, non c'è alcun dubbio. Coppa è un'ossessione. Io aspetto, prima di salutare Maurizio Crosetti, siamo davvero alle sensazioni, no? Ma secondo voi sarà partita lunga oppure ce la sbrighiamo in 90 minuti? Vuoi sapere, non lo so. E aggiungo, per come li avete visti, chi è in vantaggio se sarà partita lunga? Cioè chi sta meglio? Io penso che vincerà la Juve, direi 2-1, però è un pronostico nei 90. Secondo me sì, però ma di che stiamo a parlare? Se magari mi sbaglio tranquillamente, oppure verso il Capuano. Vai, una macchia che non cancellerai mai. Sono abbastanza scarso da questo punto di vista. No, mi sembra che la Juve sia, per tutta una serie di motivi, mi sembra che negli astri, appunto nei disegni divini del calcio, la Juve abbia qualcosa in più questa partita. Sì, perché sembra anche a me, sembra a tutti, solida, questo può essere anche e mi sembra soprattutto che sia, diciamo, il tassello finale di una generazione, e per Barzagli questo discorso è più stringente, Bonucci ancora tempo, Chiellini così così, ma insomma Barzagli, Buffon, quella generazione lì è probabilmente l'ultimo treno. Sentiamo anche Maurizio e poi saluto e lo lascio passeggiare per Lady Cardiff e soprattutto organizzare il viaggio. Tranquillo, sono stato direi tra i primi a dire proprio da questi prestigiosi microfoni che secondo me la Juventus vincerà questa Champions per una serie di ragioni che non riassumiamo più, ma che poi alla fine si possono anche ridurre al fatto che secondo me è una squadra più completa e dunque migliore, e le cose psicologiche le abbiamo dette, e io penso che non avrà neanche bisogno dei supplementari, ed è anche un augurio perché i giornalisti che scrivono in notturna le partite e devono scrivere i supplementari e i rigori, e quante volte mi è successo, quante volte dal 96, i mondiali, gli europei, il golden goal, sempre. Quindi stavolta per favore ragazzi fatemi lavorare con calma che c'ho già una certa età. Secondo te comunque nel caso in cui non ti obbedissero i ragazzi, chi sta meglio, la Juventus? Cioè fisicamente, chi ha più benzina? Lì salta tutto. Nel 2003 c'era il Milan che aveva Roque Junior zoppo, aveva finito i cambi nei supplementari, la Juve se n'era accorta e non riuscivano mai a puntare da quella parte era un buco, il Milan aveva un buco, non si può dire chi... Stanno fisicamente bene, non ha Sturaro che è un cambio da Cagnasso che in certe partite può servire, però vabbè, sono dettagli questi, stanno molto bene fisicamente tutti e due. Grazie Mao, bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Pier, stai lì, dopo c'è Alberto da Pescara, mi scuso per l'attesa Alberto, però è in viaggio verso Cardiff, ne abbiamo fatto compagnia, speriamo di non aver disturbato troppo, subito dopo il traffico. Tutti convocati. I just can't get enough. I just can't get enough. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Tutti convocati. Dai ragazzi, ancora una mezz'oretta di racconti, di attesa, di farfalle nello stomaco, poi c'è Racing Team, parleremo di altre cose, di motori e soprattutto del Mugello che domenica si corre. Alberto, buongiorno! Buongiorno! Dunque, On the way to Fiumicino, sì. Per questa Road to Cardiff? In order to grab the beach, not the cup, but the beach. Perché per noi juventini quella coppa è una puttana, passatemi l'ho definita ossessione, però anche il modo in cui l'ha definita lei è molto interessante. È un'ossessione perché tante volte l'abbiamo buttata via, tante volte l'abbiamo persa immeritatamente, tante volte abbiamo avuto paura di vincerla, questa volta ci abbiamo tanta esperienza, tanta consapevolezza, abbiamo giocatori come Khedira, come Dani Alves e soprattutto Mandzukic, il numero 17, che secondo me dom- domani sera sarà l'uomo della l'ombra del partito. Considera Carlo che io la sera di Juventus Barcellona sono entrato a Juventus Stadium e ho preso la maglia di Dybala. Sì. E Dybala ha fatto quel che ha fatto. La sera di Juventus Monaco ho preso la maglia di Dani Alves, sì, le ho tutte e ha segnato. Sì. Dani Alves ha spendito gol col Monaco in semifinale. Domani sera indosserò la maglia di Mario. Di Mario Mandzukic. Puoi prendere la giacca mia, che ne so, troviamo una formula, eccetera. Soprattutto parti abbastanza bene. No, devo dire che l'ossessione è la parola giusta, nel senso che la Juve, che nella sua storia italiana ci sono delle tendenze, no? Ci sono delle cose non scritte ma che esistono. Nella sua vicenda italiana la Juve è una squadra fortissima ovviamente, ma anche in qualche circostanza il concetto di fortuna è un concetto strano, perché non possiamo dire fortunata, sembrava dominatrice. La Juve è questa dominatrice che spesso poi in Italia le cose ma questo storicamente le cose risolte in Europa questa cosa non succede, cioè sicuramente a livello di finale di Champions la Juve non è stata fortunata, la stava portando in qualche circostanza con gli episodi arbitrali. No, poi c'è anche, ricordiamo, Mijatovic che tra l'altro alla vigilia ha serenamente dichiarato vince Real 2-0, festa finita, forza Real, ricordiamo quel gol che non se l'è scordato nessuno. Io però proverei ad andare a sfrugugliare l'altra metà d'Italia, anzi la maggioranza dell'Italia, che è quella che invece ti farà Real, come è anche normale che sia. Quindi posso anche chiedere a Tommaso Labate che maglietta si è comprato di quelli dei madrileni. Beh, quella di Sforza, come da famoso di tormentone Sforza. Di Aldo, Giovanni e Giacomo, che dicevano la maglia di quella di Sforza, perché quella di Ronaldo era finita. E quindi con quella partita assisterò domani in maniera molto laica, molto tranquilla, molto serena. Che bugiardo che sei un bugiardo clamoroso. Non c'è a testa, ero quasi, guarda, meno male che mi avete chiamato Carlo, perché mi ero dimenticato che era domani. Dimenticato. Sì. Mi ero dimenticato che era domani. Ti ricordo che domani sera sei a casa Mughini, Ti ricordo domani sera sei alle 19 a casa Mughini, vedrete la partita insieme, quindi sarà un grandissimo. Ma la cosa è molto divertente, che tu dici impraticabile perché Giocchiero lo farà mai, ma io e Mughini abitiamo a 30 metri. Ah, quindi potreste vederli insieme, appunto, organizziamo qualcosa. No, ma Tommy, a parte il fatto che ti eri dimenticato perché non esiste, perché la finale di Champions League, fammi vedere chi gioca, a parte tutto Carlo, questo era diverso. Domani c'è la finale e io aspettavo la finale di Ballando con le Stelle, visto che quella di Amici, sì, per fare un po' di palcondi. Non ho dubbi. Poi se la Juventus dovesse vincerla, te la raccomando lunedì, quando ti verrà a mancare anche l'ultima delle frasi con cui potevi tagliare la testa al toro con gli Juventus, no, come ho detto prima, il triplete ce l'abbiamo solo noi, no, ti deludi, perché tu sei uno di quelli che va invece a tirare in ballo Calciopoli, no? No, io c'ho così noioso. Due cose. Io c'ho triplete e c'ho il mai stati in B. Non so perché io ha il mai stati in B. Ha il mai stati in B. Rimane. Quindi quello rimarrà. Poi non so perché c'è le squadre singolarmente. Non so se la Juve c'è finita per motivi differenti alla Pro Patria. Io so che non abbiamo mai giocato un campionato di Serie B. Quindi questa cosa rimarrà nei confronti dei milanisti, che comunque credo, così la sensazione, Pierluigi, siano i più accaniti tra i gufi, no? Perché è chiaro che anche romanisti, napoletani, eccetera, cioè, sarà la maggioranza dell'Italia. Non sono mannai, salve, però Piepoli, però ti direi che sì, gli interisti, forse anche i napoletani, negli ultimi anni la rivalità fra Napoli e questa era molto forte, quella proprio è abbastanza storica, però forse negli ultimi anni non è stata neanche troppo. L'ultimo episodio caldo è stato proprio di Garcia. Ti sento male. Spostati un pochino, che qua, ti sento che vai qui, che vai e vieni. Una mano davanti al telefono, l'altra, cioè, l'altra. Non so più che fare. Adesso salgo, entro in un. Sali su un pennone. C'è un ponte qui, adesso lo risalgo. Comunque, ragazzi, se il tifo fossero voti, domani sarà il replay del referendum del 4 dicembre. Uno con tutti i suoi tifosi da una parte e tutti gli altri dall'altra. La verità è questa. Poi c'è chi lo dice, chi non, chi lo dice di nascosto, chi alimenta il... Ma perché, perché nasconderlo? Così. Perché nasconderlo? Credo, cioè, c'è Mughini che è apertamente... Io non credo che questa Juve, tanto per essere chiari, non credo che questa Juve sia particolarmente antipatica agli avversari. Ma non è questione di questa Juve, pardon, anche secondo me non è questione di questa Juve, è questione della Juve. Cioè, quindi voi mi dite che ci sono, che ne so, 13-14 italiani che sono divertiti contro 40? Io non credo che sia così. Io penso ci siano molte persone che invece vivono questa partita, pur non essendo tifosi della Juve, con un atteggiamento quantomeno neutrale. Ma perché io secondo non, me ci sono dei giocatori. Cioè, grosso modo. Guarda, grosso modo quelli che non seguono il calcio, perché io invece credo in una divisione molto più netta, nel senso che se, o sei juventino o domani tifo Real Madrid, salvi patriottici ad oltranza, che esiste anche quella, ma in Parlamento, Tommaso, sarebbe uno spicchietto. Sì, ragazzi, però diciamoci la verità, la voglio dire tutta facendo nomi e cognomi. Secondo me, ve lo dico con grande onestà, in cuor suo, cioè nel cuore dell'italiano che ha vinto più Coppe Campioni, è impossibile che Silvio Berlusconi tifi come ha detto per la Juventus, soltanto che giustamente dal suo punto di vista, vabbè, lui non, ma lui non può dire, vabbè, lui non può dire, è chiaro, il personaggio pubblico non può dire, ma secondo me non tifa per la Juve, ma è ovvio, per la Juve. È ovvio, Tommy. Questo perché mi dici, prima si chiedeva perché non dico, ho fatto l'esempio di un italiano abbastanza, certo, ma questa è l'unica ragione per cui ha un senso non dichiarare il proprio tifo. Io sto parlando del comune cittadino che insomma, al di là di discorsi patriottici, non ha alcuna ragione per nascondere. Allora, la Juve è la squadra più vincente in Italia e più polarizzante, più divisiva, quella che chiaramente quella che da un certo punto di vista rivendica anche il fatto di essere, tra virgolette, odiata dagli avversari. Quindi questo è il punto di partenza. Io non credo che questa Juve però sia particolarmente antipatica in assoluto, nel senso che comunque secondo me c'è una generazione di giocatori che ci metto, ripeto, Buffon, ma potrei dirti anche Barzagli, li metto in cima, che secondo me se prendesse questo traguardo sarebbe felice, o comunque insomma non è vista con antipatia da parte della maggioranza degli italiani. Poi ripeto, io in cima alla lista ci metto Allegri, alla lista che hai fatto tu. Non è abbastanza simpatico, non è no, ma poi sarei felice vincesse la Coppa. Però Tommaso, condividi il ragionamento di Pardo? No, perché io sottoscrivo che io sono per il pallone d'oro, tipo per Buffon, per essere tutti i premi Oscar a Barzagli, farete loro. Il problema non sono loro, sono i tifosi della Juve con cui noi, amici, colleghi, vicini di casa, con cui noi abbiamo un corpo a corpo. E questo trofeo, se lo vincono, sopravviverà a Buffon e a Barzagli. Esatto, è così. Quando io con i miei amici li prendo per i fondelli sul triplete, cosa che per cui mi resteranno altre 24 e più ore, cioè mica ci andiamo a ricordare di Diego Motta, di Eto'o, eccetera, eccetera. Ma certo, i giocatori vanno e vengono, i trofei e le maglie restano. L'elemento triplete per gli interisti è fondamentale, questo lo capisco. Insomma, è ovvio che perché l'Inter ha fatto l'impresa storica, è stata la prima a fare questa impresa, e quindi è ovvio che insomma certo 1972 c'era uno per 20 anni. Più tardi parliamo con Giacomo Agostini, che non lo ammetterà mai, lo conosco bene pubblicamente, però ci tiene a quel record lì, e quindi se Valentino chiude la carriera così, non, insomma, poi tantissimo non gli dispiace, questo lo dico io, immagino io. Ciao Tommy, buon divertimento. Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori e anche soprattutto gli juventini, a cui faccio un grande augurio per beccatevi di Tommaso Labbate, del signor Labbate. Traffico, torniamo. Convocati. Tutti convocati. Dunque, sul fronte juventino abbiamo parlato un po' di tutto, di viaggi, di come Cardiff, di come sta la squadra, eccetera, eccetera. resta solo da parlare degli avversari, Pardo. E allora Filippo Maria Ricci, che è a Cardiff. Com'è? Ti piace Cardiff? Ma c'ero stato quando ero a Londra. Sì. Normale, va bene, un bello stadio, una cittadina senza molta arte né parte, però c'è del verde, vale, ho capito, c'è un cazzo da vedere, abbiamo capito dopo il tuo giro di parole, ma questo lo sapevamo già, molto polite, ma c'è di peggio, c'è di peggio, c'è di peggio, è più brutta, sì. Brutta anche lì, secondo me è più brutta. Cardiff è... ma scherzi, Birmingham, Manchester, no, ma delle città orrende, insomma, ci sono in giro per il mondo. No, senti, invece di traccheggiare, come sta il Real Madrid? Sì. Prima si parlava con Crosetti, con gli ascoltatori, con l'Abate, con tutti quanti, eccetera. Cioè, da una parte è vero, ha ragione Pardo, c'è la possibilità del double, che da quando c'è la Champions League non è mai stato fatto da nessuno. Però vuoi mettere questo con il fronte juventino, per il quale invece quella coppa è un'ossessione, oppure the beach, come l'ha definita prima un nostro ascoltatore, Filippo? Sì, assolutamente, voglio dire, qui sono più abituati, c'è anche da fare questo double Liga Champions che non fanno dal 1958, per cui anche loro ne hanno di motivazioni, però è chiaro, la Juve ha perso troppe finali, questo senz'altro, però se tu mi chiedi come sta Real Madrid, sta benissimo. Sta benissimo. Questo sì, hanno comunque vinto una Liga che non vincevano da 5 anni, e questo, certo, è un'iniezione di morale importantissima, perché cioè, vinceva sempre il Barcellona, una l'aveva vinta addirittura l'Atletico Madrid, a loro, certo, mancava. Ci sono, certo, arrivati, e le condizioni sono ottime, moralmente, fisicamente, insomma, la squadra è a posto, tra l'altro questo contrattempo con Bale, certo, che no, molto probabilmente, per quello che ha detto lui anche a noi l'altro giorno a Media Day, non dovrebbe giocare, facilita anche le scelte, perché Zidane si sarebbe trovato questo, una scelta molto, molto difficile. Sarebbe. Ma in panchina ci va? No, in panchina sicuro entrerà, cioè giocherà una parte della partita, giocherà, poi attenzione, adesso vediamo anche quella conferenza stampa più tardi, magari c'è la sorpresa e ci dice che gioca. No, ma chiaro, sì. No, però in generale, cioè, è andato tutto liscio, hanno avuto una settimana più di riposo, no? Appunto si è tolta di mezzo questa difficoltà, questa difficile scelta, certo, e c'hanno l'abitudine, la voglia, certo, e insomma così, insomma, la tradizione. No, certamente il rovescio tra l'altro, Filippo, hanno lo stress che è venuto dopo il classico di ritorno, no? Con la vittoria del Barcellona, che ha di fatto reso la Liga incerta fino all'ultimo, poi in realtà è stata quasi un'opportunità, nel senso che hanno dovuto gestire, superato la difficoltà, hanno superato uno scoglio, quindi no, che ma la verità è che il Madrid sta bene, cioè che qua ha ragione Filippo, si riporta, abbiamo questo, devo dire, noi conosciamo la Juve più del Real, perché comunque ogni giorno la vediamo, chiaro. Però il Real è no, ma tu, comunque tutti i discorsi che stiamo facendo vogliono dire, portano a una conclusione: la Juventus avrà per tutta questa lunghissima serie di ragioni, compreso il fatto che ce la sentiamo un po' tutti, avrà molta più pressione addosso rispetto ai Blancos. Questa è, secondo me, questo è il senso. Siete d'accordo? È l'altra faccia della fame. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, esatto. È l'altra faccia della motivazione. Il Madrid è abituato alla pressione, cioè ce n'ha di più la Juventus perché ha un'esigenza maggiore. Ma anche la Juve è abituata alla pressione, Filippo. Anche la Juve è abituata alle pressioni. Un pochino meno, perché purtroppo ultimamente in Europa è andata meno bene di quello. Ma proprio per quello, a maggior ragione. La Juve arrivò con pieno merito alla finale, dove poi giocò bene, e la partita a un certo punto doveva anche girare, ma nella quale, premesso che poi ogni finale quando ci arrivi la vuoi vincere, tutto sommato a me ancora mi prendono in giro per un mio tweet, la Juve uscì a testa alta e fu comunque una buona figura, arrivò veramente da underdog alla finale, arrivò con l'atteggiamento di una squadra che già aveva fatto il suo e che provava a fare l'impresa contro il Barcellona, non c'è riuscita, è uscita decentemente, amen. da quella partita, e poteva anche girare a un certo punto con il rigore di Pogba, ma questo è un discorso che lasciamo perdere. Stavolta è 50-50, quindi sicuramente questo elemento c'è. Io quello che noto, ma ripeto, stiamo qua a guardare gli astri, è che se devo vedere dei momenti nella stagione del Real di difficoltà, cioè delle mezz'ore in cui il Real prende l'imbarcata, in cui subisce, io le trovo queste mezz'ore qui, le trovo. Lo stesso Bayern Monaco sicuramente, Atletico Madrid al ritorno, quindi Calderona. Queste situazioni ci sono. Nella Juve ci sono, ma sono delle robe quando c'hai 7 punti di vantaggio sulla seconda, sì, è chiaro, quando non conta. Probabilmente il livello del campionato spagnolo è più alto, non lo so, però ecco, insomma, l'autorità con la quale la Juve ha superato il Barcellona è superiore all'autorità con la quale il Real ha superato il Bayern, che secondo me è l'unico parametro scientifico che possiamo. Sei d'accordo, Phil? Assolutamente, e poi aggiungo che comunque oltre alla lista che ha fatto anche Luigi, io ne aggiungo altre partite anche nel campionato spagnolo, tanto il Classico l'hanno perso, il Derby non sono riusciti a vincerlo, a farlo del ritorno. Grandi momenti di difficoltà col Villarreal, con la Spalmas, insomma ci sono tante le partite, c'è sempre un momento, mettiamola così, possiamo dire, c'è sempre un momento della partita nel quale il Real Madrid soffre. Sempre. Se la Juventus segna e ne approfitta, sempre. C'è sempre un momento in cui il Real Madrid soffre, praticamente in tutto l'anno è sempre stato così. Poi è chiaro, c'hai un attacco stellare, c'è gente che può... milioni di persone che possono risolvere una partita, una panchina eccezionale, la puoi girare, la puoi vincere, puoi fare tutto quello che vuoi. C'è sempre un momento di difficoltà. Se la Juve approfitta del momento di difficoltà, dopo, io ti dico, per me la chiave per la Juventus è andare in vantaggio. Sì. Come quasi sempre nelle finali. Ragazzi, vi ringrazio, ci sentiamo. Pier, okay. Buon lavoro con ciao, i prepartiti. Filippo Guerrarici in tribuna. Noi ci ritorneremo su questa partita con la Coppa assegnata, cioè domenica pomeriggio alle 5. Perché dopo questa breve pausa, GR giorno festivo non va in onda. Dopo questa breve pausa apriamo il nostro Racing Team. Roberto Ungaro è già arrivato, buon motivo per altro buon motivo, anzi soprattutto ottimo motivo per collegarsi anche via video sul sito Radio 24 o su Facebook. A dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui social network, la pubblicità digitale, le nuove app e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, ricominciamo tutti ai vostri posti e andiamo. Tutti convocati. Racing Team. Allora, il venerdì questo appuntamento è ormai cult. Racing Team, questa settimana si corre tra l'altro al Mugello su due ruote. Ciao Roberto Ungaro. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Ecco il mio amico Leo Turrini. Buona giornata, come stanno andando le libere al Mugello, che qui sulla Pero Cormano funzionano male le radio. Leo, c'è la rossa in gran spolvero, prime prove addirittura Dovizioso e secondo il collaudatore Pirro, ma anche le altre rosse vanno forte perché Lorenzo è sesto e Petrucci è settimo, queste nelle prime prove. Poi nelle seconde invece si è messo l'inglese davanti a tutti, Cratchall con la Honda, ma le Ducati sono lì. Valentino è un po' acciaccato, è oltre un secondo, ma c'è, questa è la bella notizia per noi. Allora, prima di continuare a parlarne, se volete anche con voi, naturalmente, 800 24 00 24, anche per distrarvi dal pensiero di Cardiff, questa è la nostra copertina con le voci dei protagonisti. Mugello è un weekend a sé, è molto stressante, ma ti dà molta carica a tutto il contesto che trovi qua. Beh, il Mugello è sempre speciale per me, perché è probabilmente la mia pista preferita, dove ho vinto di più, soprattutto negli ultimi anni in MotoGP. Ho vinto penso 5 di 6 o così, e sempre vado molto forte qua, no? E quest'anno ancora di più. È più importante perché sono Ducatista, e ci sono una grada intera di tutti che supportano la Ducati, tutto il rosso, e sarà molto speciale. Vediamo qui di ritrovare un po' questo feeling, perché è quello che sto facendo più fatica, e vediamo, anche cambiano le gomme davanti, così proviamo di fare un bel weekend qui a Mugello. C'è un'atmosfera speciale, tanta gente al paddock che tifa, io tanto tifosi qui in Italia, mi piace sempre molto, sento molto il cuore dei tifosi, mi piace una pista che mi piace molto. Dal 2008 non sono più arrivato fra i primi due. Quindi? Mi sono fatto male, con la Ducati sono andato abbastanza male, oddio, nel 2012 ho fatto quinto, ho fatto altri due podi, ma sempre terzo. La volta che stava andando quindi bene, diciamo, ha svampato. Quindi diciamo che non è una mia, delle mie grandi piste ultimamente, ecco. E questi, con accompagnati da una grande musica, erano Dovizioso nell'ordine, Lorenzo, Marquez, Pedrosa e ovviamente Valentino Rossi. Mi ha fatto ridere Carlo quando Lorenzo dice penso 5 su 6, lo sa sicuramente a memoria perché sono numeri stampati. Il Mugello, Carlo, è la pista più amata da tutti i piloti. Sì, eh? Sì. Perché? Perché è la più tecnica, perché ci sono dei sali scendi che non trovi da nessun'altra parte, perché è un catino naturale, sei immerso nel verde ed è qualcosa che, se vai forte al Mugello, puoi andare forte dappertutto, è davvero la più amata. E la pista più amata dell'Auto Turin invece era Pero Cormano, no? Ma al di là di scherzi, io sono qui, sai, insieme a tutti gli amici interisti, ci stiamo trasferendo al Polo Sud perché vogliamo risparmiarci il mese di festeggiamenti successivo alla meritata. Senti, ma tu e quel di Cardiff, e quindi stiamo intasando le strade per uscire dall'Italia. Però vorrei sapere da Ungaro, no, aspetta un attimo, adesso ti faccio fare la domanda a Ungaro. Prima parlavamo con Tommaso Labate, che io dicevo, insomma, gufismo, a me piace anche, cioè, l'Italia divisa, la minoranza, cioè tutti gli juventini, e la maggioranza tutti gli altri che ti fanno contro, un piccolo spicchio di neutrali, ma quelli che viva il tricolore e basta. Prima Labate mi faceva notare come, ad esempio, Berlusconi in cuor suo non ti farà certo per la Juventus, però non può dirlo essendo personaggio pubblico. Tu puoi dichiarare il tuo gufismo o no, Turrini? È una domanda per Ungaro o per me? Questa? No, per te, per Ungaro porta. Ma io vorrei scomodare, visto che tu hai evocato Berlusconi, una figura del Novecento italiano, comunque la si voglia giudicare, che si chiamava Giulio Andreotti. Allora tu, Genta, non eri ancora nato. La Juventus stava per giocare una finale di Coppa dei Campioni ad Atene contro l'Amburgo. E Giulio Andreotti va ospite al processo di lunedì di Aldone Biscardi, no? E uno dei presenti chiede all'onorevole Andreotti: lei, per chi ci dica, perché fa il tifo tra Hamburgo e Juventus? E l'uomo della Prima Repubblica rispose con le sue labbrucce rincerrate: mi astengo. Certo. E io credo che questa sia una risposta corretta al quesito che l'amico Genta provocatoriamente ha voluto spararmi con una coltellata delle schiena. Ho capito. Mi farai dire che tifo contro. Io mi astengo, ma vorrei però a questo punto chiedere una cosa all'amico Ungaro. Puoi farlo, adesso puoi dopo questa puoi farlo. No, volevo sapere, considerato il tasso di informazioni che possediamo sullo stato di salute di Valentino, no? Fisicamente intendo, riuscirà a essere competitivo per questo Gran Premio è una cosa troppo difficile, considerate le conseguenze dell'incidente che ha avuto? Molto, molto difficile, Leo, perché questa pista è difficile. Lui qua non ha mai brillato, un po' di sfortuna anche, e comunque è acciaccato, eh. È entrato e visivamente e non è nel suo stato di forma migliore, è a oltre un secondo, quindicesimo nelle prime prove. E deve recuperare. Vignales invece era subito veloce, c'è da dire anche una caduta per Vignales, è un po' male al braccio ma non ha grossi problemi, moto distrutta però, e sarà difficile vedere secondo me Valentino lì davanti tra i protagonisti. Il podio lo vedo veramente qualcosa di difficile. Però ne abbiamo visti un sacco, ma anche Turrini sulle macchine ne ha visti un sacco, cioè, prima abbiamo avuto ospite Capirossi qualche tempo fa, mi ricordo vinse quella gara in Ungheria, Lorenzo che va dopo essersi spaccato tutto un braccio, vola a Barcellona, si fa operare ad Assen e torna indietro per correre, quindi non lo so quanto possa incidere al fine. Io sarei contento se Valentino domenica, sulla base di quello che sappiamo a proposito della salute, facesse lo stesso risultato di Schumi nel 1996, era un gran premio in Germania, non lo sa nessuno, Schumacher era il primo anno da Ferrari e si era brillantemente fracassato una costola giocando a pallone. La notizia però venne tenuta segreta, non venne detto perché infatti era il primo anno da Ferrari, una costola scassata, insomma lui prese comunque parte al Gran Premio e si classificò quarto, prese dei punti e una gara che era nata per lui sotto, diciamo così, la stella peggiore, no? Certo. Perché, ecco, allora sulla base di quello che ci ha detto prima Ungaro, se davvero Valentino è così condizionato dalle conseguenze dell'incidente, io spero quantomeno che possa limitare i danni facendo un bel piazzamento. Sarebbe un grande risultato nella logica del campionato, voglio dire. Quello è ovvio, però Leo, devi calcolare che qui, a differenza di altri circuiti, c'è una Ducati che è protagonista perché è la pista di casa, e quindi Dovizioso, Lorenzo, ma anche le altre possono andare forte, e quindi sono clienti scomodi che di solito nella bagarre, nella partita, non ci sono. Poi Yamaha, sappiamo quanto va bene su questa pista, quanto ha vinto con Lorenzo, Vignales è abbastanza in forma a dispetto della caduta, e poi ci sono i punti di domanda delle Honda, perché Marquez, Pedrosa ha chiuso secondo nelle seconde prove, quindi è lì anche lui protagonista. Marquez ha preferito provare tanto con la gomma dura, non è uscito tanto con la gomma morbida e vuole prima mettere a posto le cose, e poi sappiamo che è una sorpresa e quando è lì è il momento, lui alla fine c'è, quindi sarà una bella battaglia. Tutti speriamo per un podio per Vale, ma non sarà la gara dove farà il colpaccio, purtroppo. Però scusami, io sono qui in coda sulla Piero Cormano, tutti mi chiedono di interpellarti. Siamo molto preoccupati, non ci hai detto nulla sul conto di Iannone. Iannone, allora, è partito. Vorremmo che tu finalmente scendessi dal pero, come diciamo noi che abbiamo studiato ad Harvard. Perché non ci citi manco di striscio la Suzuki del compagno di Belen tra i possibili protagonisti del Gran Premio d'Italia? Perché non lo sarà? Sei invidioso? Ma questo è evidente, Chi è che non è invidioso? Non è invidioso? Perché Andrea è partito molto in sordina, ha fatto undicesimo Leo nelle prime prove, poi è migliorato ottavo, però non è lì davanti, c'è da dire che sono tutti una decina nel giro di un secondo, quindi è ottavo e non ha neanche 4 decimi di stacco, potrebbe essere della partita anche lui, io me lo auguro, perché dai, lascia stare. Senti, andiamo da una leggenda. Giacomo Agostini. Ciao Giacomo. Leo Turrini al telefono e Roberto Ungaro qui con me. Io sono muovo dalla voglia di chiederti, comincio io poi lascio la palla ai professori. Come valuti tu l'errore che ha fatto nello scorso Gran Premio Valentino? Cioè, errore superato, secondo posto fondamentale, esce il diciottenne che è in lui, che prova qualcosa di impossibile. Beh, direi che Valentino ha fatto una grande gara in Francia, è riuscito ad andare in testa e la gara era sua. Purtroppo questo piccolo errore in staccata, allargato appena appena. Perfetto. E a quel punto lì cosa fai? A quel punto lì niente, fai quel che ha fatto, perché qualcuno dice ma doveva mollare e accontentarsi, invece no, perché dopo una gara, dopo tanti giri di adrenalina, sei lì per vincere o comunque sei incollato a quello che ti ha appena superato. Mancano due curve, cosa fai? Chiudi. È logico che tenti. Sarebbe stato difficile se tutto andava bene, ma poteva anche sbagliare, poteva sbandare, poteva andare largo l'ultima curva, Vignale, se quindi lui l'avrebbe superato. No, quindi, ragazzi, è giusto tentare, cioè non puoi dopo 40 minuti di gara, le ultime due curve dire basta, chiudo, cioè non è facile. Io vi capisco e mi arrendo ovviamente davanti al più grande di tutti, mi arrendo. Io avrei tenuto il secondo, io sono del partito di quelli, Carlo, che dice so, però, ho fatto la cazzata. Le nostre sono gare, non sono gare di regolarità, sono gare di velocità, quindi ho capito. Devi vincere, non siamo alle ultime gare dove devi fare il ragioniere. Altrimenti, giusto, se cominci all'inizio a fare il ragionamento, non vincerai mai più il campionato del mondo. Quindi è giusto che Valentino abbia tentato, ma anche perché di testa non è facile, mancano due curve, tu sei lì e molli, cioè, gli lascio la vittoria. Cioè, mettetevi in lui, cioè mettetevi in un pilota che è lì a due metri. Tu immagina che lui molla e Vignales, per dire, non so, fa una sbandata, fa una intraversata, quindi perde mezzo secondo, si taglierebbe le palle quello dietro, chi ha chiuso e ha lasciato. Mino, io la penso come te, ma poi il campione si vede lì, è lì che fa la differenza. E a livello psicologico, pensa cosa sarebbe stato Mino nei confronti di Vignales se ce l'avesse fatta, perché c'è lì questo compagno di squadra scomodo, è il più veloce, è giovane, va più forte, non, lo si sa, uno schiaffo morale. Non c'era più la condizione, a meno che quell'altro non avesse sbagliato. Leo Torrini, voglio sentire la tua, e aggiungiamo anche la Formula 1 in questo discorso, perché è un discorso che vale anche per le gare su quattro ruote. Intanto voglio dire che io andavo con Ago, mio coetaneo, il Turistrofi, e voglio dire che mio amico Giacomo è stato il più grande di tutti. Il Turistrofi. Anche dei film con Mal dei Primitives, e quindi voglio che tutti sappiate che Agostini è stato un fenomeno assoluto dello sport italiano. Turistrofi per me è una leggenda, un mito. Con Giacomo ne ho parlato tante volte. Con Mal dei Primitives qualcosa sulla coscienza ce l'ha. Quindi, detto questo, io vorrei chiedere al mio amico Ago, premetto che condivido quello che ha detto a proposito della caduta di Valentino alle mani, eccetera, se si aspettava che Lorenzo avrebbe avuto un approccio così difficile con la Ducati, perché ne parlai con te quando firmò il contratto e forse non ci aspettavamo che sarebbe stato un impatto così duro. Sì, infatti è vero, cioè nemmeno io mi aspettavo che ci volesse tanto tempo o comunque si impiegasse tanto per poter lottare per il primo posto. È dura, non so, lui è un grande pilota, è un pilota velocissimo, però è molto sensibile, bisogna che lui sia contento, bisogna che gli giri tutto al 100% e allora lui riesce. Se ha un po' di difficoltà, purtroppo lui si demoralizza e molla, però il campionato è appena iniziato. Certo, come tutti ci aspettavamo di più, invece adesso vediamo che c'è Dovizioso che sta andando più forte di lui. Vediamo, diamogli ancora qualche gara e vediamo un attimo come andrà a finire. Ma io così tenero Lorenzo non me l'immaginavo, invece. Ma la difficoltà è che lui ha questa guida molto pulita, ha plasmato una Yamaha che l'hanno costruita su di lui, e lui è un po' la Max Biaggi, guida tondo, pulito nella sua linea e unica linea, non è un pilota che ci mette del suo e cambia il suo stile di guida. La Ducati è una brutta bestia, una moto diversa da tutte, e quindi era ben, cioè non auspicabile, ma era chiaro che fosse così. La cosa che a me ha così un po' deluso è che via le alette la Ducati è tornata a essere una moto normale, mentre invece l'anno scorso era una moto superiore, se parliamo di prestazioni, alle altre. Non la più bilanciata, non la più a posto, però Ducati andava molto forte. Ha subito tanto, ha accusato il discorso delle alette. Magari non è tutto lì, Carlo, però la Ducati di quest'anno non è la Ducati dell'anno scorso. Questo mi sembra se piuttosto evidente. Se le alette avevano questo, cioè ti davano questo vantaggio, anche gli altri le avrebbero messe, quindi saremmo arrivati alla pari degli altri. Quindi, sì, però il Ducati ha studiato per prima. Non è la letta che adesso lo fa andare. C'è dell'altro. Perché gli altri non le hanno e vanno. Ma per, allora il fatto è che Ducati che Ducati prestazionalmente è sempre stata superiore, è riuscita a mettere a terra la potenza che aveva in più degli altri, perché Gigi Dall'Igna ha voluto studiare l'aerodinamica, ma questa è partita ancora prima, col responsabile di prima, non dimentichiamocelo. Il discorso dell'aerodinamica, ha investito tanto in quel fattore, e poi hanno visto che era un vantaggio e alla fine insomma è stata tolta questa cosa, è stata molto allora penalizzata. Se hanno tanta aerodinamica e hanno tanto motore, quindi non hanno niente a invidiare gli altri. No, è che se hai tanti più cavalli, il motore c'è, però c'è anche l'aerodinamica, metterlo per terra, tu lo sai, se hai tanti cavalli ma non li riesci a mettere per terra è inutile avere questa esuberanza, e non avendo più l'effetto deportante che aveva, la moto diventa molto inguidabile, fanno fatica, distrugge le gomme, infatti non riescono a usare gomme che altri usano, cioè è un discorso molto complesso, però la Ducati non capisco, però oggi come mai Dovizioso cos'è, secondo, terzo, velocissimo, senza Alesse, è la pista di casa, no, è ovvio, è la pista di casa. Mino, invece, mi viene da pensare, quando parlavo di Valentino e Maverick Vinales, del discorso che se ce l'avesse fatta, che schiaffo psicologico, cioè metteva i puntini sulle i. Tu, in effetti, non hai mai avuto un compagno di team superiore, mai, ma neanche la tua altezza, è vero o no? Cioè, questa è una condizione che tu difficilmente hai provato. Adesso voglio essere presuntuoso, forse perché ero troppo veloce io. Sei sempre stato il re, Giacomo, e al fianco non hai mai voluto nessuno che potesse infastidirti. È giusto così, perché comanda chi. Solo che non decidevo io. Mi ricordo quando hanno preso Fury dall'MV. Sì? L'hanno preso perché volevano stimolarmi, quindi non decidevo io. Decideva la casa, poi soprattutto all'MV non c'era tanto da comandare, decideva il Conte Augusto e basta. Ed quindi... è servito o no? Questo è interessante, perché tu da pilota ce lo puoi dire. Sì, serve perché magari se hai, sai cos'è, che il tuo compagno di squadra è il primo degli avversari. Il tuo primo avversario. Me l'ha sempre detto Lucchinelli, vero? Questa ma certo cosa. Sì, abbiamo la stessa moto, come adesso parliamo di Iannone, e Iannone sappiamo se è lui che va meno, se la moto va meno, eccetera. Perché? Perché non ha un compagno che può andare come lui o più di lui. Se un compagno che va più di lui, potrebbero dire no, guarda che la moto non è. In questo caso dobbiamo credere e ascoltare Iannone, perché non abbiamo nessun riferimento. Io sono dell'idea, al largo discorso anche Leo Turrini, sono dell'idea delle gerarchie, poi non so se Agostini si iscrive al partito, al nostro partito pro Raikkonen. Io sono per le gerarchie precise, prima guida, seconda guida. Di Lorenzo, da Ducati, io che potrei essere vostro nonno, mi ricordo di un motociclista che quando salì sulla Yamaha andò per la prima volta alle 200 miglia di Daytona e tutti dicevano non si adatterà mai né alla pista americana né alla Yamaha, e vinse il primo colpo e si chiamava, era mio coetaneo, Giacomo Agostini. Quindi voglio dire, poi forse alla fine, quando parliamo di Iannone con la Suzuki, Lorenzo sulla Ducati, bisognerebbe anche andare a capire fino in fondo il vero valore aggiunto di chi la guida la moto, ecco. Anche nel caso mio ho dovuto imparare un po', però ho imparato, perché uno che sa andare in moto non è perché io ho cambiato da una quattro tempi a un motore due tempi, ho cambiato la prima gara che ho fatto in America, non ero mai stato su una pista sopraelevata e con una 750 non avevo mai corso, quindi dopo 15 giorni che mi sono allenato ho imparato, cioè se sei motociclista, cioè non è che non puoi imparare ad andare in moto, poi una si guida in una maniera e l'altra nell'altra, ma che sono piccole differenze, non è che ti stravolge, basta adattarsi o capire come si guida quella moto se sei un professionista. Ah, ma Giacomo, scusa se insisto, tu meriteresti di essere fatto senatore a vita se non ci fosse questa macchia che facevi il film con Mal dei Primitives. Io capisco che al Quirinale riflettono un po' e dicono ho incontrato tante fidanzate, questo mi ha fatto bene. Idolo Mino. No, ma sai, adesso come Belen, anche roba alla Belen, Jack. No, non ho capito, scusa? Anche roba alla Belen? Non ho capito roba? Non ho capito. No, a proposito di fidanzate. Ragazzi, Mino è un idolo, eh. Io, cioè, anche a proposito di fidanzate, cioè, Iannone ti supera almeno in questo in quantità sicuro no. in qualità la Belena gli porta tanti punti, gli importa, questa sarà piaciuta morire a Turrini, che me lo immagino lì sulla Piero Cormano che ride come un pazzo furioso. No, ma io sono bloccato in coda anche perché voi sapete che c'è questo processo imminente nel quale spero gli venga chiamato a deporre, sì, perché Nina Mori ci ha accusato Belen di essere un viado, se avrete letto, no? E sì, quindi questo è uno dei, grandi temi dell'estate italiana, e qui non lo so io. Vorrei vedere con i miei occhi, vorrei vedere questo, sarei proprio curioso. Io pure, caro Giacomo, io te che eravamo assieme a Drittone 45 anni fa, capito? Questi sono ragazzi, non hanno visto le pin-up americane di allora, per carità. Questo sacrificio lo farei volentieri, per aiutare Iannone, fuori dubbi, per aiutare Iannone. E chiamiamo anche Mal, però, in giuria, Mal. Certo, chiamiamo anche lui. Senti, per chiudere con te, Giacomo, ti lascio andare. Ci stiamo divertendo veramente. Anche se Turrini confermerà come James Hunt non lo batte neanche Agostini, no? Beh, Hunt onestamente aveva una fama molto, molto collaudata su certi fronti. Anche lui non lasciava niente. Allora, ecco, bravo. Erano anche tempi proprio a livello culturale, voglio dire, diverso. Era il tempo, insomma, dell'eccesso in assoluto e così via. Però bisogna sempre dire, quando si parla di Hunt, al di là della suggestione del film e tutto il resto, che era un grandissimo pilota. È durato poco perché si buttava via in altre cose, ma Leo, il nostro James Hunt delle due ruote era Barry Sheen, però io posso veramente confermare una cosa, che Mino, magari con meno cinema, più in silenzio, ma a Barry Sheen e a James Hunt gli fa il giro. Questo va detto. È che Mino, la differenza è che Barry Sheen si è fidanzato subito e quindi si è sposato subito, tra virgolette, quindi era legato. Invece io fortunatamente ero libero, capisci? Io volavo dove volevo. Mino, capisci? Per me tu sei un idolo, non per i 15 titoli, ma per quell'altra roba lì, e lo sai. Bella, una bella roba anche quella, una bella roba. Senti, lasciami, allora Giacomo, lasciami provare a chiederti una cosa. Che riguarda ancora le moto, no, perché Ungaro mi ha insegnato tempo fa, mi ha detto tempo fa una cosa interessante, cioè questa generazione di piloti, adesso c'è Vinales, prima di lui Marquez, che è quella che esce da un'altra epoca, che è quella della Moto 2, non esce più dalla 250, e questo cambia tutto, è vero? Ma cioè, in che senso esce dalla Moto 2? Te lo spiega lui. Tecnicamente tu sai che da Marquez in poi, che è nato sulla, invece che fare 105 2,5, è passato 105 e Moto 2 604 tempi come la MotoGP, quindi è un altro tipo di scuola, non ha l'insegnamento del due tempi ed ha approcciato subito con un po' di elettronica, cosa che invece nel due tempi non c'era. Quella è una linea spartiacque, ma gli altri tempi che dici tu, Carlo, è la generazione di Mino che ha corso su strada, turistrofili dicendo, ha fatto altre cose, cambiava cilindrate come è un altro film. Era più tecnico, ogni generazione ha i suoi campioni, i suoi idoli. Secondo me non è giusto comparare, non si può dire Oscar e Schumacher, è difficile perché ogni epoca ha ogni i suoi epoca, frutti, è vero. Quando cioè la generazione di Mino era un'altra storia, perché c'erano altre gare, altri rischi, assolutamente. Purtroppo sai cos'è, ai miei tempi cos'era la cosa più grossa, più importante, purtroppo era il pericolo, nel senso che noi non potevamo cadere. Oggi vedi che cadono, fortunatamente si rialzano, si puliscono la tuta e ripartono. Purtroppo nei nostri tempi, quando dicevano Agostini cade poco, per forza si moriva, devi cadere poco. Oggi puoi osare di più, nel senso che puoi permetterti di scivolare e ti rialzi grazie alle piste, grazie agli spazi di fuga, grazie ai caschi, grazie all'airbag, al turistrofi, se sbagli muori, questo devi sempre tenere presente. È un altro film, turistrofi è qualcosa che per me è leggendario, cioè per me nella mitologia del mondo. Anche secondo me è una delle gare più difficili al mondo, nella mitologia, lì siamo alla mitologia. Giacomo, ti ringrazio. A meno che Leo Turrini non voglia chiederti qualcos'altro, aspetta che mi è caduta la linea, allora ti ringrazio Giacomo. Ok, ciao. Ok, a presto. Ciao Mino. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Sai Roberto, io ho questo culto del turistrofi. Per me è qualcosa di leggendario. Ma per capire il turistrofi bisogna capire gli inglesi, la loro testa e la loro mentalità. Allora capisci cos'è per loro quella gara. Ti racconto un aneddoto, se c'è qualche secondo. Sì. Quando dirigevo una rivista, mandai un fotografo e un mio giornalista a fare un reportage, a seguire una persona che correva nel campionato delle moto elettriche, era il primo anno. Gli è stato in fianco tutta settimana, con la moglie e tutto quanto. Questa persona muore. Mi è tornato il fotografo, non ti dico com'era uno straccio, mi ha detto: Roberto, buttiamo via tutto. E io gli ho chiesto: ma dimmi una cosa, la moglie come ha reagito di fronte alla morte in diretta di suo marito? No, mi ha detto, era serena, mi ha detto è morto felice perché stava facendo la cosa che più gli piaceva. Lì ho capito l'approccio loro e ho pubblicato lo stesso servizio e ho fatto capire appunto il loro approccio, il sentimento, la testa, come sono gli inglesi, che sono diversi da noi. Per noi è pazzia, per loro no. Ma io credo, non so se è questione dell'essere inglesi o dell'essere moglie di un pilota, questo non potrò mai capirlo. Discorso che vale così, abbiamo recuperato Leo Turrini, lo salutiamo. Discorso che vale questo della sicurezza anche per le macchine, perché prima parlavamo di James Hunt, quelle erano delle bombe su quattro ruote, Leo. Beh sì, poi addirittura sai, adesso sono proprio 50 anni dalla morte di Lorenzo Bandini a Monte Carlo, era all'inizio di giugno del 67, Giacomo se lo ricorderà benissimo. Loro in Formula 1 viaggiavano su vetture che erano praticamente dei missili circondati di benzina. Esatto. E al primo urto la macchina prendeva fuoco, eccetera. Quindi Leo, ci sono naturalmente culture, come diceva prima giustamente Ungaro, che hanno una sensibilità, un approccio diverso di fronte al rischio estremo. Questo è vero. Però io credo che sempre e comunque, anche nel nostro presente, perché abbiamo avuto purtroppo anche dei ricordi dolorosi in tempi recenti, bisogna rispettare chiunque salga su una moto o un'auto da corsa, perché lo fa avendo la consapevolezza che potrebbe anche non esserci un'altra gara. Per fortuna oggi succede rarissimamente, però chi fa questo mestiere, che sia al Mugello o a Monte Carlo, dove volete voi, ha questa cosa dentro. Sai qual è il messaggio che voglio dire, Leo? E tu lo sai, che i piloti che fanno quelle cose lì su strada non fanno neanche un metro, perché non voglio dipendere dagli altri, dagli automobilisti. Questo ci fa riflettere. Ciao ragazzi, è stato bellissimo come sempre. Ringrazio Leo Turrini, Roberto Ungaro, Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Edoardo Lavezzari. Ci sentiamo domenica. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!